Ciao ragazze. Ciao. Ciao. Dai, vabbè, iniziamo. Onore. Said I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun. But if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. Buonasera, buonasera, eccoci ritrovate, ritrovati, ritrovato qui su Radio Wombat. Io sono Addu, qui con voi su Nervature. Siamo il 17 febbraio, mando gli auguri a una persona a me cara che forse mi sta ascoltando, ma oltre a questo andiamo avanti, 19.05, scusate il piccolo ritardo, ma partiamo, ci siamo. Tra l'altro oggi sono in diretta, l'avrete capito, se no non è in ritardo. E, quindi direi che come prima cosa vi ricordo i contatti della radio e quelli per chiacchierare con me in diretta. Allora, Radio Wombat ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui trovate tutti i podcast delle trasmissioni passate, presenti e future. No, future scherzavo, non ci sono, ma le passate sì. Andateli a spulciare, trovate anche la sezione contatti, da cui c'è la posta, la casella di posta, postawombat@insiberia.net, e c'è anche appunto il link per andare al pad. Il pad, che è un foglio di testo condiviso, una specie di Word ma condiviso con tutte e tutti quelli che lo aprono, e quindi potete semplicemente scrivermi lì e io lo vedrò più o meno in diretta, comunque vi risponderò quanto prima. E quindi davvero sbizzarritevi con domande, saluti, dubbi, misteri e quant'altro. Ci ascoltate però anche non solo dallo streaming dal sito ovviamente, ma anche sulle frequenze AM alle 13.59. mi raccomando, se siete in area fiorentina, provate ad ascoltarci e fateci sapere come si sente. Allora, in questa giornata freschina, ma un po' soleggiata per fortuna, direi di non tardare troppo a iniziare con i contenuti di quest'oggi, i quali direi di accennarli adesso, perché questa sarà l'ultima puntata dell'audiolibro di La rivoluzione del filo di paglia, ma come forse avete già capito non sarà solo questo, sarà un po' più, anzi è già un po' più movimentata direi, perché mi manca molto molto poco a finire il libro, giusto qualche capitolino corto, e quindi si legge, lo leggiamo insieme, e subito dopo mi raccomando rimanete davvero connesse all'ascolto, a orecchie come elefanti, perché vi porterò un'intervista appunto che ho fatto qualche giorno fa a un appunto un applicatore dell'agricoltura naturale descritta da Fukuoka, appunto Masanobu Fukuoka, nel libro La rivoluzione del filo di paglia, che andiamo ora a finire. Quindi applicatore di questa agricoltura naturale proprio qui da noi in Italia, nelle Marche. Vi racconterà molto meglio lui riguardo a questo interessantissimo argomento, ma prima c'è da aspettare ancora un pochino. Prima finiamo insieme questo audiolibro e poi con tutti questi pensieri e filosofie e ragionamenti, modi di vedere le cose che esploreremo insieme, poi ci lanciamo verso l'ascolto di questa interessante testimonianza. Thank you. sono nata per andare all'asilo. Un giovane con una piccola borsa sulla spalla venne su camminando con comodo nei campi dove stavamo lavorando. «Di dove sei?» gli chiesi. «Di laggiù». «Come sei arrivato qua?» «A piedi». «E perché sei venuto qua?» «Non lo so». La maggior parte di quelli che vengono qui non hanno fretta di rivelare i loro nomi o la storia del loro passato. Non chiariscono molto nemmeno il loro scopo. Dato che molti di loro non sanno perché vengono, ma vengono soltanto, è solo naturale. All'inizio l'uomo non sa da dove viene o dove va. Dire che si è nati dal grembo di nostra madre e ritorniamo alla terra è una spiegazione biologica, ma nessuno sa veramente che cosa c'è prima della nascita o che mondo ci aspetta dopo la morte. Nato senza saperne la ragione, solo per chiudere gli occhi e partire per l'infinito ignoto, l'essere umano è davvero una tragica creatura. L'altro giorno avevo trovato un cappello di carice, ovvero vimini, intrecciato, lasciato da un gruppo di pellegrini che erano passati a visitare i templi di Shikoku. Su di esso stavano scritte le parole «All'origine né est né ovest». 10 infinite direzioni. Ora, tenendo il cappello in mano, chiesi nuovamente al giovane da dove venisse e lui disse che era figlio di uno che era prete in un tempio a Kanazawa e poiché era una stupidaggine stare a leggere versetti sacri ai morti tutto il giorno, voleva diventare contadino. Non c'è né est né ovest. Il sole sorge ad est. Tramonta ad ovest, ma questa è solo un'osservazione astronomica. Sapere che non capisci né l'est né l'ovest è più vicino alla verità. Il fatto è che nessuno sa da dove viene il sole. Fra le decine di migliaia di scritture, quella di cui dobbiamo essere più riconoscenti, quella dove tutti i punti importanti vengono fatti, è il Sutra del Cuore. Secondo questo sutra, il Signore Buddha dichiarò «La forma è vuoto, il vuoto è forma. La materia e spirito sono una cosa sola, ma tutto è vuoto. L'uomo non è vivo, non è morto, non è nato e non muore. Senza vecchiaia né malattia, senza aumento né diminuzione. L'altro giorno, mentre stavamo mietendo il riso, dissi ai giovani che stavano riposando appoggiati a un grosso covone. Stavo pensando che quando si semina il riso in primavera, il seme emette dei germogli vivi e adesso che stiamo mietendo sembra morire. Il fatto che questo rituale si ripeta ogni anno significa che la vita continua in questo campo e che la morte annuale è essa stessa nascita annuale. Si potrebbe dire che il riso che stiamo mietendo adesso vive continuamente. Gli esseri umani di solito vedono la vita e la morte in una prospettiva piuttosto corta. Che significato può avere la nascita della primavera e la morte dell'autunno per questa erba? La gente pensa che la vita è gioia e la morte è tristezza, ma il seme di riso, che riposa dentro la terra ed emette i germogli a primavera, le sue foglie e i suoi steli che seccano in autunno, ancora conserva nel suo piccolissimo germe la gioia piena della vita. La gioia della vita non se ne va con la morte. La morte non è altro che un passaggio momentaneo. Potresti forse dire che questo riso, dato che possiede la gioia piena della vita, non conosce il dispiacere della morte? La stessa cosa che succede al riso e all'orzo si ripete continuamente nel corpo umano. Ogni giorno capelli e unghie crescono, decine di migliaia di cellule muoiono decine di migliaia ne nascono di nuove, il sangue che c'era nel corpo un mese fa non è lo stesso di oggi. Quando pensi che le tue stesse caratteristiche si trasmettano ai corpi dei tuoi figli e nipoti, puoi dire che muori e rinasci ogni giorno. E ancora continuerai a vivere per molte altre generazioni dopo la morte. Se si può assaporare e sperimentare ogni giorno la partecipazione in questo ciclo, nient'altro è più necessario. Ma la maggioranza della gente non è capace di godersi la vita mentre fluisce e cambia da un giorno all'altro. Si aggrappa alla vita come l'ha già sperimentata e questo attaccamento abitudinario porta con sé la paura della morte. Badando solo al passato che è già andato o al futuro che deve ancora venire, dimenticano di vivere sulla terra qui e ora. Mentre si dibattono nella confusione, osservano le loro vite che passano come in un sogno. Se la vita e la morte sono realtà, non è forse inevitabile la sofferenza umana? Non esiste né la vita né la morte. Ma come puoi dire questo? Il mondo stesso è un'unità di materia dentro il flusso dell'esperienza, ma la ragione delle persone divide i fenomeni e i dualismi come la vita e la morte, lo yin e lo yang, l'essere e il vuoto. La mente arriva a credere nell'assoluta validità di quello che i sensi percepiscono e allora, per la prima volta, la materia com'è si trasforma in oggetti come gli esseri umani li percepiscono normalmente. Le forme del mondo materiale, i concetti della vita e della morte, della salute, della malattia, della gioia e del dolore, traggono tutti la loro origine nella mente umana. Nel Sutra, quando Buddha disse che tutto è vuoto, non stava soltanto negando la realtà intrinseca di ogni cosa che è costruita dall'intelletto umano, ma stava anche affermando che le emozioni umane sono illusioni. Vuoi dire che tutto è illusione? Non resta nulla? Nulla. A quanto pare il concetto di vuoto resta ancora nella vostra mente, disse ai giovani. Se non sapete da dove siete venuti o dove state andando, allora come fate a essere sicuri di essere qua, in piedi davanti a me? L'esistenza è forse senza senso. L'altra mattina sentii una bambina di 4 anni domandare a sua mamma: «Perché sono venuta in questo mondo? Per andare all'asilo?» Naturalmente sua mamma non poté dire onestamente: «Eh sì, è proprio così, perciò vai, su, su!» Eppure si direbbe che la gente in questi giorni veramente nasce per andare all'asilo. Per tutto il liceo la gente studia con diligenza per imparare perché è venuta al mondo. Studiosi e filosofi, anche se si rovinano la vita nel tentativo, dicono che saranno soddisfatti se riusciranno a capire solo questo. In origine gli esseri umani non avevano scopo. Adesso, sognando uno scopo o l'altro, vanno avanti a dibattersi cercando di trovare il senso della vita. È un incontro di lotta libera individuale. Non c'è nessuno scopo a cui uno debba pensare o che debba andare in giro a cercare. Fareste bene a domandare ai bambini se una vita senza scopo sia o meno senza senso. Da quando entrano all'asilo cominciano i dolori della gente. L'essere umano era una creatura felice, ma ha creato un mondo duro e adesso lotta cercando di aprirsi un varco per uscirne. In natura c'è la vita e c'è la morte. E la natura è piena di gioia. Nella società umana c'è vita e c'è morte e la gente vive nel dolore. Zombie vaganti e l'illusione della scienza. Questa mattina sto lavorando le cassette per gli agrumi lungo il fiume. Mentre mi chino su una roccia piatta, le mie mani sentono il freddo dell'acqua in autunno. Le rosse foglie dei sommacchi, i rus, lungo l'argine si stagliano nel celeste del cielo autunnale. Sono colpito dalla meraviglia per l'inaspettato splendore dei rami contro la volta celeste. Dentro questa scena casuale è presente l'intero mondo dell'esperienza. Nell'acqua che scorre, il fluire del tempo, tra l'argine di sinistra e l'argine di destra, lo splendore del sole e le ombre, le foglie rosse e l'azzurro del cielo. Tutto appare dentro il libro sacro e silenzioso della natura. E l'uomo è un'esile canna che pensa. Quando si mette ad analizzare che cosa è la natura, deve allora chiedersi cosa sia quel che cosa e cosa sia quell'uomo che indaga che cos'è quel che cosa. In altre parole, va verso un mondo di infiniti interrogativi. Cercando di arrivare a una chiara comprensione di cos'è che lo riempie di meraviglia, che cos'è che lo stupisce, egli ha due vie possibili da seguire. La prima è guardare profondamente in se stesso, a colui che fa la domanda: che cos'è la natura? La seconda è di esaminare la natura separatamente dall'uomo. La prima via conduce nel regno della filosofia e della religione. Osservando con lo sguardo vacante, non è innaturale vedere l'acqua che scorre dall'alto in basso. Ma non c'è nessuna inconsistenza nel vedere l'acqua come se stesse ferma e come se il ponte scorresse via. Se, d'altra parte, seguendo la seconda via, la scena viene separata in una varietà di fenomeni naturali, l'acqua, la velocità della corrente, le onde, il vento e le nuvole bianche, tutte queste cose isolatamente diventano oggetti di analisi che portano ad ulteriori interrogativi che si propagano in tutte le direzioni. Questa è la via della scienza. Il mondo era semplice. Appena notavi, passando, che ti eri bagnato, sfiorando le gocce di rugiada mentre andavi in giro sui prati, poi però dal tempo in cui la gente dette mano all'impresa di spiegare scientificamente questa sola goccia di rugiada, intrappolò se stessa in quell'inferno senza fine che è la razionalità. Le molecole d'acqua sono fatte di atomi di idrogeno e di ossigeno. La gente un tempo credeva che le più piccole particelle del mondo fossero gli atomi, ma poi scoprì che c'era un nucleo dentro l'atomo. Ora hanno scoperto che dentro il nucleo ci sono particelle ancora più piccole. Fra queste particelle nucleari ve ne sono diverse centinaia di tipi e nessuno sa dove finirà l'analisi di questo universo infinitamente piccolo. Si afferma che la maniera con cui gli elettroni orbitano a velocità altissime nell'atomo assomiglia esattamente al volo delle comete nella galassia. Per il fisico atomico, il mondo delle particelle elementari è un mondo vasto come tutto l'universo. Eppure, è stato dimostrato che oltre a questa stessa galassia immediata in cui noi viviamo, vi sono numerosissime altre galassie. Agli occhi del cosmologo, allora, la nostra intera galassia diventa infinitamente piccola. Quelli che pensano che una goccia d'acqua sia semplice o che una roccia sia immobile e inerte sono degli stupidi, beati e ignoranti. E lo scienziato, che sa che la goccia d'acqua è un grande universo e la roccia un mondo in attività di particelle elementari che scivolano come razzi è uno stupido. Guardata con semplicità, questo mondo è reale e a portata di mano. Visto come una cosa complicata, il mondo diventa paurosamente astratto e distante. Gli scienziati si sono rallegrati quando furono portati giù dai sassi della Luna. Hanno meno comprensione della Luna dei bambini che cantano forte. «Quanti anni hai, signora Luna?» Basho riusciva a percepire la meraviglia della natura guardando il riflesso della luna piena nella tranquillità di uno stagno. Leggo la nota a fondo alla pagina. Basho, ovvero un famoso poeta in Giappone, poeta giapponese di haiku, vissuto nel 1600. Tutto quello che fecero gli scienziati quando uscirono nello spazio e se ne andarono barcollando nei loro stivali spaziali fu di appannare un po' lo splendore della Luna per milioni di innamorati e di bambini sulla Terra. Com'è che la gente crede che la scienza faccia del bene all'umanità? Prima i cereali venivano macinati e si faceva la farina in questo villaggio con un mulino a pietra che veniva fatto girare lentamente a mano. Poi un mulino ad acqua, che aveva una velocità e capacità di macinazione incomparabilmente maggiore del vecchio macinino di pietra. E quindi fu costruito per utilizzare la forza della corrente del fiume. Diversi anni fa venne fabbricata una diga per produrre energia elettrica e venne costruito un mulino azionato elettricamente. Come credi che questa tecnologia avanzata lavori a beneficio degli esseri umani? Per macinare il riso e trasformarlo in farina viene prima lucidato, cioè trasformato in riso bianco. Ciò significa sbucciare il chicco, togliere il germe e la crusca, che sono la base della salute, e tenere gli scarti. Leggo la nota a fondo alla pagina riguardo agli scarti. In giapponese l'ideogramma per scrivere scarti, che si pronuncia kazu, è composto di radici che significano bianco e riso. La parola che sta per crusca, nuka, è composta di riso e salute. Continuo nella lettura. E così il risultato di questa tecnologia è la divisione del chicco intero in sottoprodotti incompleti. Se il riso bianco troppo facilmente digeribile diventa l'alimento quotidiano principale, l'alimentazione manca di sostanze nutritive e diventano necessarie delle integrazioni dietetiche. La turbina e l'industria molitoria fanno il lavoro dello stomaco e degli intestini e, per conseguenza, impigriscono questi organi. Coi carburanti è lo stesso. Il petrolio greggio si forma quando il tessuto di antiche piante sepolte profondamente nella terra viene trasformato dalla grande pressione e dal calore. Questa sostanza viene estratta dal deserto, spedita a un porto per mezzo di un oleodotto e poi trasportata via nave in Giappone e trasformata in gasolio o cherosene da una grande raffineria. Cosa pensate sia più veloce? Faccia più caldo e sia più conveniente bruciare questo cherosene o invece rami di cedro o di pino che crescono davanti a casa? Leggo la nota in fondo. Attualmente gran parte del mondo si trova davanti a una carenza di legna da ardere. Nell'argomento di Fukuoka è implicita la necessità di piantare alberi. Più in generale, Fukuoka propone delle risposte semplici e dirette alla necessità della vita quotidiana. Il combustibile è fatto della stessa materia vegetale. Il gasolio e il cherosene hanno solo fatto un cammino più lungo per arrivare fino a qua. Ora cominciano a dire che i combustibili fossili non bastano e dobbiamo sviluppare l'energia nucleare. Cercare il poco minerale di uranio che c'è, arricchirlo per trasformarlo in combustibile radioattivo e bruciarlo in un'enorme caldaia atomica. Non è facile come bruciare foglie secche con un fiammifero da cucina. Inoltre, il fuoco del caminetto lascia soltanto ceneri, ma quando ha bruciato un fuoco nucleare, Le scorie radioattive restano pericolose per molte migliaia di anni. Lo stesso principio rimane valido in agricoltura. Fai crescere una pianticella di riso delicata e grassa in un campo inondato e avrai una pianta facilmente attaccata dagli insetti e dalle malattie. Se si usano varietà di seme migliorate, si deve fare assegnamento sull'aiuto di insetticidi e fertilizzanti chimici. D'altra parte, se si coltiva una pianta piccola e forte in un ambiente sano, queste sostanze chimiche non sono necessarie. Lavora un campo di riso inondato con un aratro o un trattore e il suolo diventa carente in ossigeno. La struttura del suolo si guasta, i lombrichi ed altri piccoli animali vengono distrutti e la terra si fa dura e senza vita. Quando succede questo, il campo deve essere rivoltato ogni anno. Ma se viene adottato un metodo con cui la terra si coltiva da sola naturalmente, non c'è alcun bisogno di un aratro o di una macchina operatrice. Dopo che il suolo vivente è stato bruciato e ripulito di materia organica e di microorganismi, diventa necessario l'uso di fertilizzanti a rapido effetto. Se vengono usati i concimi chimici, il riso cresce presto e alto, ma così fanno anche le erbacce. Allora si danno i diserbanti e si crede che siano utili. Ma se si semina il trifoglio insieme al cereale e tutta la paglia e i residui organici vengono restituiti alla superficie del campo come pacciame, si possono ottenere delle produzioni senza diserbanti, concimi chimici o composti preparati. Nell'agricoltura c'è poco di cui non si possa fare a meno. Concimi preparati, diserbanti, insetticidi, macchine, tutte queste cose sono inutili. Ma se si crea una condizione in cui diventano necessarie, allora si è costretti a ricorrere al potere della scienza. Ho dimostrato nei miei campi che l'agricoltura naturale produce dei raccolti che tengono testa a quelli della moderna agricoltura scientifica. Se i risultati dell'agricoltura non attiva sono concorrenziali con quelli della scienza, a una frazione dell'investimento in manodopera e risorse produttive, allora dov'è il vantaggio della tecnologia scientifica? La teoria della relatività. Guardando fuori nella luce splendente del cielo autunnale, esplorando i campi intorno, io ero stupito. In ogni podere, eccetto il mio, c'era una macchina per mietere il riso, o una mietitrebbia, che correva avanti e indietro. Negli ultimi 3 anni, questo villaggio è cambiato da non riconoscerlo. Come si può immaginare i giovani sulla collina... i giovani sulla collina non invidiavano il paesaggio della meccanizzazione. Loro si godono la quieta e pacificante mietitura col vecchio falcetto a mano. Quella notte, mentre stavamo finendo il pasto della sera davanti a una tazza di tè, ricordai come molto tempo fa, in questo villaggio, nei giorni in cui i contadini rivoltavano la terra a mano, un uomo cominciò ad usare una vacca. Era molto fiero della facilità e velocità con cui poteva compiere il faticoso lavoro di arare. 20 anni fa, quando il primo motocoltivatore meccanico fece la sua comparsa, tutti gli abitanti del villaggio si riunirono e discussero seriamente cosa fosse meglio, la vacca o la macchina. In 2 o 3 anni risultò chiaro che arare a macchina era più veloce e, senza guardare oltre le considerazioni sul tempo e la convenienza, i contadini abbandonarono i loro animali dal lavoro. L'incentivo era semplicemente dato dalla possibilità di finire il lavoro più presto del vicino podere accanto. Il contadino non si rende conto di essere diventato solo uno dei fattori nell'equazione della moderna agricoltura, che punta ad aumentare la velocità e l'efficienza. Lui lascia che sia il commerciante di macchine agricole a fare tutti i calcoli per conto suo. Originariamente la gente guardava la notte in un cielo stellato e sentiva un timore reverenziale per la vastità dell'universo. Adesso le questioni di tempo e spazio sono lasciate completamente nelle mani di scienziati e tecnici. Dicono che Einstein sia stato dato il premio Nobel per la fisica in considerazione dell'incomprensibilità della sua teoria della relatività. Se la sua teoria avesse spiegato chiaramente il fenomeno della relatività nel mondo e avesse così liberato l'umanità dai confini del tempo e dello spazio, portando a un mondo più bello e pacifico, sarebbe stato degno di lode. La sua spiegazione è però disorientante e ha portato la gente a pensare che il mondo sia complicato al di là di ogni possibile comprensione. Invece del premio avrebbero dovuto denunciarlo per aver disturbato la pace dello spirito umano. In natura, il mondo della relatività non esiste. L'idea di fenomeni relativi è una struttura data all'esperienza dall'intelletto umano. Gli altri animali vivono in un mondo di realtà indivise. Quanto più uno vive nel mondo relativo della ragione, tanto più perde di vista quel tempo che c'è al di là del tempo e quello spazio che c'è al di là dello spazio. Forse vi state domandando perché ho questa abitudine di prendere continuamente di mira gli scienziati, dissi fermandomi per prendere un sorso di tè. I giovani guardarono in su sorridendo, con i volti incandescenti e tremolanti nella luce del fuoco. È perché il ruolo dello scienziato nella società è analogo al ruolo della divisione nelle vostre stesse menti. Un villaggio senza né guerra né pace. Una serpe agguanta una rana con la bocca e scivola via nell'erba. Una ragazza lancia un grido. Un giovanotto coraggioso sfodera i suoi sentimenti di avversione e scaglia una pietra alla serpe. Gli altri ridono. Mi rivolgo al giovanotto che ha buttato la pietra. Che cosa pensi di aver fatto con quel gesto? Il falco caccia la serpe. Il lupo attacca il falco. Un essere umano uccide il lupo e poi soccombe a un virus della tubercolosi. I batteri si sviluppano nei rifiuti degli esseri umani e di altri animali. Le erbe e gli animali crescono rigogliosi sulle sostanze nutritive rese disponibili dall'attività dei batteri. Gli insetti attaccano gli alberi, la rana mangia gli insetti. Gli animali, le piante, i microrganismi, tutti fanno parte del ciclo della vita. mantenendo un equilibrio adatto, essi vivono un'esistenza naturalmente regolata. La gente può scegliere di vedere questo mondo sia come un modello del forte che mangia il debole, oppure di coesistenza e mutuo beneficio. In ognuno di questi modi di vivere è un'arbitraria interpretazione che provoca il vento e le onde, diffonde il disordine e la confusione. Gli adulti pensano che la rana meriti pietà e, sentendo compassione per la sua morte, disprezzano la serpe. Questo sentimento può sembrare naturale, solo una questione di ordinaria amministrazione, ma è veramente soltanto questo? Un giovane afferma: se la vita è vista come una lotta in cui il forte consuma il debole, la faccia della terra diventa un inferno di carneficine e distruzioni. Ma è inevitabile che il debole debba essere sacrificato perché il forte possa vivere. Che i forti vincono e sopravvivono e i deboli scompaiono è una legge di natura. Dopo milioni di anni, le creature che vivono adesso sulla Terra sono state vittoriose nella loro lotta per la vita. Si potrebbe dire che la sopravvivenza del più adatto è una provvidenza della natura. Un secondo giovane dice: in ogni modo è così che appare al vincitore. Come la vedo io, questo mondo è un mondo di coesistenza e mutuo beneficio. Ai piedi del cereale in questo campo, il trifoglio e tantissime varietà di erbe ed erbacce vivono delle vite mutuamente benefiche. L'edera si avvolge intorno agli alberi, al tronco e ai rami dei quali muschio e licheni vivono attaccati. Le felci si stendono sotto il manto forestale. Uccelli e rane, piante, insetti, piccoli animali, batteri e funghi, tutte le creature svolgono dei compiti essenziali e beneficiano ognuna dell'esistenza dell'altra. Parla un terzo. La terra è un mondo del forte che consuma il debole e contemporaneamente anche un mondo di coesistenza. Le creature più forti non si prendono più cibo del necessario. Anche se attaccano altre creature, l'equilibrio generale della natura è mantenuto. La provvidenza della natura è una regola rivestita di ferro che mantiene la pace e l'ordine sulla terra. Tre persone e tre punti di vista. Io rispondo a tutte e tre le opinioni con una piatta negazione. Il mondo stesso non si domanda mai se è fondato su un principio di concorrenza o di cooperazione. Quando è visto dalla prospettiva relativa dall'intelletto umano, ci sono quelli che sono forti e ci sono quelli che sono deboli, c'è il grande e c'è il piccolo. Adesso non c'è nessuno che dubiti che questo modo di vedere relativo esista. Ma se dovessimo supporre che la relatività della percezione umana è sbagliata, per esempio che non c'è nessun grande e nessun piccolo, né il su né il giù, se dicessimo che punti di vista del genere non hanno alcuna consistenza, i valori e i giudizi umani crollerebbero. Quella maniera di vedere il mondo non è forse un volo vuoto di immaginazione? In realtà ci sono grandi paesi e piccoli paesi. Se c'è miseria e abbondanza, forte e debole, inevitabilmente ci saranno dispute e conseguentemente vincitori e sconfitti. Non si potrebbe dire piuttosto che queste percezioni relative e le conseguenti emozioni umane e perciò naturali, che sono solo un privilegio del nostro essere umani? Gli altri animali lottano ma non fanno la guerra. Se dite che fare la guerra, che deriva da idee di forza e debolezza, è il privilegio particolare dell'umanità, allora la vita è una farsa. Non sapere che questa farsa è una farsa, in questo sta la tragedia umana. Quelli che vivono pacificamente in un mondo di non contraddizioni e non distinzioni sono bambini. Percepiscono la luce e il buio, il forte e il debole, ma non fanno giudizi. Anche se la serpe e la rana esistono, il bimbo non ha nessuna comprensione del forte e del debole. L'originaria gioia di vivere è là. Ma la paura della morte deve ancora apparire. L'amore e l'odio che salgono negli occhi degli adulti originariamente non erano due cose separate. Sono la stessa cosa vista da davanti e da dietro. L'amore dà sostanza all'odio. Se capovolgi la moneta dell'amore, compare l'odio. Solo entrando in un mondo assoluto di non apparenze è possibile evitare di perdersi nella doppiezza del mondo fenomenico. La gente distingue fra se stessa e gli altri. Nella misura in cui esiste l'ego, nella misura in cui esiste un altro, la gente non sarà liberata dall'amore e dall'odio. Il cuore che ama il maligno ego crea l'odiato nemico. Per gli umani, il primo e più grande nemico è il se stesso che tengono così caro. La gente sceglie di attaccare e difendersi. Nella lotta che ne deriva si accusano a vicenda di provocare il conflitto. È come battere le mani e poi discutere quale delle due sia quella che fa rumore, la destra oppure la sinistra. In ogni contesa non c'è né chi ha ragione né chi ha torto, né il buono né il cattivo. Tutte le consapevoli distinzioni sorgono contemporaneamente e sono tutte sbagliate. Costruire una fortezza è sbagliato dall'inizio. Anche se ha la scusa che è per difendere la città, il castello è l'effetto della personalità del signore che comanda ed esercita un potere coercitivo sulla zona circostante. Dicendo che ha paura di un attacco e che la fortificazione è per proteggere la città, il prepotente si arma e mette la chiave nella porta. L'atto di difendersi è già un attacco. Le armi per la difesa sempre danno un pretesto a quelli che fomentano le guerre. La calamità della guerra nasce dal rafforzamento e dall'esaltazione di vuote distinzioni di sé, altro, forte, debole, attacco, difesa. Per tutti non c'è nessun'altra via alla pace che partire dal portone del castello della percezione relativa, andar giù nel prato e ritornare nel cuore della natura non attiva. Cioè, arrotare il falcetto invece della spada. I contadini di tanto tempo fa erano gente pacifica, ma adesso stanno litigando con l'Australia per la carne, discutono con la Russia sul pesce e dipendono dall'America per il frumento e la soia. Ho come la sensazione che qui in Giappone stiamo vivendo all'ombra di un grande albero. E non c'è posto più pericoloso durante un temporale. E non c'è niente di più stupido che rifugiarsi sotto un ombrello nucleare che sarà il primo bersaglio nella prossima guerra. Adesso stiamo coltivando la terra sotto quell'ombrello scuro. Sento che una crisi si sta avvicinando sia da dentro che da fuori. Fate a meno degli aspetti del centro e del dentro e del fuori. I contadini dappertutto nel mondo sono fondamentalmente gli stessi. Lasciateci dire che la chiave per la pace si trova vicino alla terra. Bene, il computer ha deciso di così mettere il video in pausa, la canzone in pausa. Eccola lì che è ripartita, scusate. Thank you. E allora leggiamo qui insieme l'ultimo capitolo di questo grande libro. Il capitolo appunto si chiama La rivoluzione del filo di paglia. La rivoluzione del filo di paglia. Fra i giovani che vengono a queste casette sul monte, ci sono quelli, poveri nel corpo e nello spirito, che hanno abbandonato ogni speranza. Io sono solo un vecchio contadino che si lamenta di non poter dar loro nemmeno un paio di sandali. Ma c'è ancora una cosa che posso dare loro. Un filo di paglia. Raccattai un po' di paglia davanti alla baracca e dissi: da questo solo filo di paglia può cominciare una rivoluzione. Con la distruzione dell'umanità a portata di mano, speri ancora di poter aggrapparti a una pagliuzza? Domandò un giovane con una punta di amarezza nella voce. Questa paglia sembra piccola e leggera. La maggior parte della gente non sa quanto sia pesante in realtà. Se sapessero il vero valore di questa paglia, questo filo potrebbe diventare abbastanza potente da muovere il paese e il mondo. Quando ero bambino c'era un uomo che viveva vicino al passo in Ugliose. Sembrava che non facesse altro che caricare carbonella sul cavallo e portarla per 2 miglia circa di strada dalla cima della montagna al porto di Gunchu. Eppure diventò ricco. Se domandate come, la gente vi dirà che nel suo viaggio dal porto verso casa raccoglieva la paglia abbandonata, ferri di cavallo e il letame ai lati della strada e li buttava sul suo campo. Il suo motto era: tratta un filo di paglia come se fosse importante non fare mai un passo inutile. Lo rese un uomo ricco. Anche se bruciasse, non credo che questa paglia sarebbe capace di fare nemmeno una scintilla per cominciare una rivoluzione. Una brezza leggera mormorava attraverso gli alberi del frutteto, la luce del sole tremolava fra le foglie verdi. Cominciai a parlare dell'uso della paglia nella coltivazione del riso. Sono passati quasi 40 anni da quando ho capito quanto poteva essere importante la paglia nel coltivare il riso e l'orto. A quell'epoca, passando nella provincia di Kochi, per un vecchio campo di riso che era stato lasciato abbandonato e incolto per molti anni, vidi del giovane riso sano che vegetava su attraverso un groviglio di erbacce e paglia che si erano accumulate sulla superficie del campo. Dopo aver lavorato per molti anni sulle implicazioni di questo fatto, saltai fuori a sostenere un modo completamente nuovo di coltivare il riso e l'orzo. Credendo che questa fosse una maniera rivoluzionaria e naturale di coltivare, ne scrissi in libri e giornali e ne parlai alla televisione e alla radio dozzine di volte. Sembra una cosa molto semplice, ma i contadini sono così fissati nel loro modo di pensare su come la paglia va usata che è poco probabile che accettino di cambiare. Spargere paglia fresca su un campo può essere rischioso perché il brusone del riso e lo sclerozio sono malattie sempre presenti nella paglia di riso. In passato queste malattie hanno provocato gravi danni e questa è una delle ragioni principali per cui i contadini hanno sempre trasformato la paglia in composto prima di restituirla al campo. Anticamente una sistematica trasformazione della paglia di riso era praticata comunemente come misura preventiva contro la malattia del brusone. E vi furono tempi a Hokkaido in cui la completa bruciatura della paglia era richiesta per legge. I minatori del gambo si annidano anche loro nella paglia per passarci l'inverno. Per prevenire un'infestazione da parte di questi insetti, i contadini erano soliti compostare la paglia accuratamente tutto l'inverno, per essere sicuri che sarebbe stata completamente decomposta per la primavera successiva. È per questo che i contadini giapponesi hanno sempre tenuto i loro campi così puliti e così in ordine. La conoscenza pratica della vita quotidiana diceva che se i contadini lasciavano la paglia in giro, sarebbero stati puniti dal cielo per questa trascuratezza. Dopo anni di sperimentazione, anche dei tecnici esperti hanno adesso confermato la mia teoria che spargere paglia fresca sul campo 6 mesi prima di seminare è una cosa completamente sicura. Questo capovolge tutte le idee precedenti sull'argomento, ma passerà molto tempo prima che i contadini diventino disponibili ad usare la paglia in questa maniera. I contadini hanno lavorato secoli a cercare di aumentare la produzione di letame decomposto. Il Ministero dell'Agricoltura dava una volta un premio come incentivo per incoraggiare la produzione di compost e varie mostre con concorsi di produzione di composti organici erano tenute ogni anno. I contadini arrivarono a credere nel letame come se fosse la dea protettrice del suolo. Adesso c'è di nuovo un movimento per aumentare la concimazione organiche. Un composto migliore, con lombrichi e starter per affrettare la fermentazione. Non c'è nessuna ragione per aspettarsi una facile accettazione della mia proposta, che non è necessario preparare cumuli né composti, che tutto quello che è necessario è spargere per i campi paglia fresca, non trinciata. Viaggiavo verso Tokyo e guardando dal finestrino del treno di Tokaido ho visto come si è trasformata la campagna giapponese. Osservando i campi invernali, l'aspetto dei quali è completamente cambiato in 10 anni, sento una rabbia che non riesco ad esprimere. Il paesaggio precedente di campi puliti di orzo verde, a stragalo cinese e piante di rape in fiore, non si vede più da nessuna parte. Invece, paglia mezza bruciata e ammonticchiata alla pioggia. Il fatto che questa paglia venga trascurata è una prova del disordine della moderna agricoltura. La nudità di questi campi rivela la sterilità dell'anima dell'agricoltore, mette in dubbio la responsabilità dei dirigenti governativi e, chiaramente, indica l'assenza di una saggia politica agraria. L'uomo che diversi anni fa parlò di una pietosa fine per la coltura dei cereali invernali, della loro morte lungo la strada. Che cosa pensa adesso quando vede questi campi vuoti? A vedere d'inverno i campi sterili del Giappone non posso più continuare ad essere paziente. Con questa paglia io, da solo, comincerò una rivoluzione. I giovani che erano stati a sentire in silenzio stavano adesso ridendo fino alle lacrime. Una rivoluzione di un solo uomo! Domani prendiamo un grande sacco di semi di orzo, riso e trifoglio e andiamo portandocelo sulle spalle. Come Okuninushi no Mikoto, a spargere semi su tutti i campi di Tokaido. Non è una rivoluzione di un uomo solo, Risi, è la rivoluzione di un solo filo di paglia. Uscendo dalla casetta nella luce del sole pomeridiano, mi fermai un momento a guardare gli alberi del frutteto circostante, carichi di frutta che stava maturando, e le galline che razzolavano fra le erbacce e il trifoglio. Allora iniziai la mia solita discesa verso i campi. E quindi questa era la fine della rivoluzione del filo di paglia. Adesso, prima di continuare la puntata, direi vi metto, vabbè, a parte questa bellissima colonna sonora, avete sentito fino adesso canzoni varie di John Coltrane e altri jazzisti meravigliosi, però prima vi vorrei mettere magari un pezzo un po' diverso e poi vediamo di continuare insieme questa puntata. Tu cherches quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. We'll be right back.

This